Però oggi Grilli ha anche detto un'altra cosa un po' sibillina. Fabio, te ne chiedo un commento. Lui ha detto: la situazione non è una novità, non è un fulmine a ciel sereno. Noi conoscevamo le problematicità di Monte dei Paschi già da un anno. Beh, vorrei vedere, avendogli accordato i Monti Bond, era chiaro che la conoscessero. Forse non conoscevano appunto come, le modalità con cui questo buco di bilancio da 200 e passa milioni di euro si è formato. Ma è molto banale in realtà. Cioè adesso qui c'è la gara ovviamente a dare la colpa a qualcuno, a trovare responsabile, a palleggiarsi le responsabilità. Direi che è quasi la palissiano, perché prima di ricevere i Monti Bond adesso aveva già ricevuto i tre Monti Bond, non dimentichiamocelo. Un po' meno, e 1,9 miliardi. Certo, però vuol dire che era l'unica banca italiana che era corsa, in cui lo Stato era dovuto scendere in soccorso, quindi già più di un anno fa. L'EBA, che è l'autorità bancaria europea, ha già segnalato negli stress test che l'unica banca italiana che non aveva superato l'esame era proprio MPS, lo segnalava 6 mesi fa. Che la situazione fosse nota e che tutti, dagli operatori finanziari alla vigilanza a questo punto, sapessero che tra le prime 5 banche italiane quella con la peggiore performance di patrimonio fosse MPS, questo era noto. Quindi non capisco adesso questo, penso che tendano a buttarla molto in politica. Il problema è che MPS purtroppo passerà alla storia come la Parmat delle banche italiane. Perché, questo accostamento oggi è stato fatto più volte. Sì. Perché in realtà nasce tutto nel 2008, cioè tu non puoi comprarti una banca come Anton Veneta pagandola 4 miliardi in più di quello che in realtà vale. Rilevi una banca che aveva più sofferenze delle tue, quindi la banca era malata, Anton Veneta, è stata strapagata una banca malata. C'è un proverbio che dice l'ospedale aiuta la chiesa. Perfetto. Quelle sofferenze sono andate ad aggiungersi a quelle del Monte dei Paschi e quindi hanno complicato ulteriormente il quadro. Alla fine, se tu strapaghi una cosa che vale anche poco, tu quella cosa dopo 2 o 3 anni puoi fare tutte le manovre che vuoi, gli occultamenti che vuoi, ma prima o poi la verità viene a galla. E hanno dovuto svalutare Anton Veneta per 4 miliardi, tant'è che il bilancio di MPS chiude 18 mesi con perdite per 6 miliardi e il capitale della banca, MPS deve avere 10 miliardi di capitale per reggere, secondo le autorità di vigilanza europee. Se tu però me ne perdi 6, è ovvio che sei in uno stato di quasi collasso ed è ovvio che oggi, se non interviene lo Stato, la banca sarebbe sull'orlo del tracollo.